2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 13 febbraio 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it. Potete scriverci per qualsiasi motivo oppure potete visitare il nostro sito internet, le pagine di 2024, scegliete la sezione programmi su www.radio24.it. Iniziamo con una buona notizia, vista l'alta richiesta di podcast, quindi ci sono molti dei nostri ascoltatori che vogliono riascoltare o anche ascoltare in un altro momento la puntata settimanale di 2024. Vista l'alta richiesta, grazie anche ai nostri e soprattutto ai nostri tecnici, da questa settimana il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile attraverso il servizio podcast entro un'ora e mezza dalla fine della trasmissione. Quindi potrete scaricare la nostra puntata e quindi riascoltarla a partire al massimo dalle 18.30 del sabato. Ottima notizia, per questo, come dicevo, ringraziamo in modo particolare i nostri tecnici che lavorano al di là del vetro, come si dice. Ci sono alcune notizie della settimana, poi i nostri approfondimenti come al solito. Iniziamo da due notizie che riguardano la Apple, che ha iniziato giovedì il conto alla rovescia per la 10 miliardesima canzone scaricata da iTunes da quando il negozio di musica è online, è stato aperto nel 2003. Il cliente che acquisterà il brano numero 10 miliardi vincerà una carta acquisto del valore di $10,000. L'iPad, il tablet della Apple, di cui abbiamo parlato recentemente, 2024, che sarà messo in vendita tra marzo e aprile negli Stati Uniti, costerà alla produzione solo $229. Questa è la stima fatta da una società che è specializzata nello smontaggio degli aggeggi elettronici, degli strumenti, degli apparecchi elettronici, che calcola ogni volta che esce un nuovo prodotto il costo reale alla produzione. Per l'iPad da $499, che verrà venduto a $499 più le tasse americane, sarà la versione meno costosa, secondo iSupply il costo dei componenti sarà di $219 e quello della manodopera di 10. Il modello più costoso da oltre $800 costerà alla produzione $335. Tutti gli altri vanno all'Apple. Una notizia che riguarda l'Italia: in una classifica annuale elaborata dalla London Business School, la Svezia è risultato il primo paese al mondo per l'uso delle tecnologie di comunicazione, superando gli Stati Uniti. La notizia che riguarda l'Italia è che noi siamo al 19° posto, gli ultimi tra i paesi del G7 per l'uso della tecnologia. Google questa settimana ha introdotto all'interno della Gmail un nuovo servizio chiamato Buzz, che di fatto aggiunge al servizio di posta elettronica alcune funzioni tipiche dei social network come Facebook, quindi maggiore velocità nel dialogare e condividere foto, musica o video con altri contatti. Oggi Gmail conta 176 milioni di utenti e secondo la società di ricerca Comscore, Google è il terzo gestore di posta elettronica, di webmail nel mondo, dopo Windows Live Hotmail e Yahoo Mail, che sono i due principali nel mondo. C'è un'altra notizia che riguarda Google, che ha annunciato una sperimentazione che partirà entro la fine dell'anno per portare nelle case di alcune migliaia di americani un collegamento ad internet ad alta velocità. Google parla di un collegamento, pensate, a un gigabit, quindi parliamo di velocità giapponesi, e ha chiesto alle comunità e agli enti locali interessati di farsi avanti entro la fine di marzo. Alla nuova rete in fibra ottica potranno collegarsi tra le 50.000 e le 500.000 persone, quindi un numero limitato. Del resto si tratta di una sperimentazione e, secondo alcuni analisti americani, non si tratta di un'invasione di campo del mercato dominato dai grandi operatori di comunicazione, quindi Google non si mette a fare l'internet service provider, bensì di una mossa per fare pressione su questi affinché accelerino la diffusione di collegamenti a banda larga. Quello della diffusione di un collegamento ad altissima velocità è un tema di dibattito anche in Europa e anche nel nostro paese. Ieri ne ha parlato il presidente dell'AGCOM, quindi l'autorità per le comunicazioni italiane, Corrado Calabrò, secondo il quale il costo della fibra ottica estesa in tutta Italia sarebbe compreso in un intervallo tra gli 8 miliardi e i 16-18, insomma c'è una bella differenza. Questo sarebbe il risultato di studi commissionati a diverse università italiane dall'autorità. Chiederemo all'autorità, se già non è pubblicato sul sito, di vedere questi studi, perché sarà interessante analizzarli. Alla domanda chi dovrebbe fare questo investimento, Calabrò ha detto che finora siamo davanti ad un paradosso. Hanno fatto più gli enti locali che i gestori, ma se l'ente locale, dice ancora Calabrò, mette la fibra ottica, nessuno la utilizza perché non è collegata con il resto di internet. E invece è invece mancato finora un progetto industriale, in primis di Telecom Italia, anche se ci sono delle esperienze in corso, per esempio in Trentino. Queste sono parole di Corrado Calabrò. Quello che è stato sottolineato, cioè quello delle esperienze, soprattutto a livello locale, è un punto molto interessante che andrebbe analizzato meglio. Bisognerebbe infatti, e lo è stato detto più volte, mappare la fibra che gli enti locali o le aziende municipalizzate, quindi aziende pubbliche che hanno investito denaro pubblico, fibre che hanno steso per vari motivi, e capire quanto questa fibra ottica potrebbe essere utilizzata già nei prossimi mesi. Ci sono molte regioni del nord che hanno investito molto in fibra ottica negli ultimi anni, ma le cui fibre non vengono attualmente utilizzate, o comunque vengono sottoutilizzate, o vengono utilizzate solamente per collegare gli enti locali. Invece su quei collegamenti potrebbe passare anche internet per i cittadini. Un'altra notizia della settimana riguarda l'equo compenso SIAE. Dall'inizio dell'anno un decreto del ministro Bondi ha esteso a tutti gli strumenti dotati di memorie, quindi in grado di contenere file di testo, audio, video, il cosiddetto compenso per copia privata. Ne abbiamo parlato nel 2024, un compenso che era nato per compensare gli autori per il mancato introito quando un cliente che ha acquistato musica, ad esempio, si fa una copia privata. Ora, quando si acquista un telefonino, sappiate, ma anche un hard disk, un computer, un decoder con hard disk, si paga una sorta di tassa che va alla SIAE, e in alcuni casi questo vale, pensate, addirittura alcune decine di euro. C'è un grosso dibattito, soprattutto i produttori di tecnologia si sono lamentati, perché questo è un balzello che pesa sul costo finale della tecnologia e quindi un freno allo sviluppo della tecnologia. La notizia di questa settimana è che l'associazione Altro Consumo ha presentato un ricorso all'antitrust europeo. Per quale motivo? Lo abbiamo chiesto a Marco Pierani di Altro Consumo. Sì, abbiamo presentato questo ricorso per una serie di violazioni delle norme alla concorrenza. In particolare noi riteniamo che si tratti di un aiuto di Stato, perché con il decreto Bondi l'eco compenso si è allargato in maniera smisurata. Adesso in un anno si tratta di 61 milioni di euro, sarà quell'anno prossimo probabilmente più del doppio, ma in pratica è un aiuto di Stato, perché si prendono dei soldi all'industria delle tecnologie e soprattutto ai consumatori, e si regalano alla SIAE, che ne trattiene una parte, e una parte le dà all'industria dell'audio visivo, senza alcuna motivazione, perché ormai non c'è più alcun legame tra l'equo compenso e la copia privata. Quindi voi dite, immagino, sostanzialmente due cose. La prima è che non si può chiedere a tutti indistintamente, e quindi anche a chi non fa poi nessuna copia, un prelievo su un hard disk o su qualsiasi altro sistema di cui stiamo appunto parlando. E poi immagino anche che ci sia un problema legato al fatto che, ad esempio, io compro una canzone, la salvo sull'hard disk, ma su quella canzone, se l'ho comprata legalmente, io ho già pagato il diritto alla SIAE, quindi poi all'autore. Sì, ci sono sostanzialmente tre motivi base del ricorso. Uno è quello che raccontavi tu. Facciamo il caso di chi scarica da iTunes legalmente un titolo. La licenza di iTunes già riconosce un certo numero di copie, per cui si paga già il diritto d'autore. Secondo questa norma sull'equo compenso, però io che scarico da iTunes legalmente e ho pagato, devo pagare poi l'equo compenso sull'iPod e poi anche quello sul PC, per cui è un triplo pagamento. Poi c'è un altro problema, è quello del cosiddetto business use. ipotizziamo tutte le memorie, tutti i supporti che si utilizzano, non so, nella sanità o nella pubblica amministrazione, sono tutte cose che scontano l'equo compenso, quando invece la copia privata è la copia fatta dai privati. Tutto questo poi ha un costo a valle sui consumatori. Infine un'altra cosa, la regola europea, la direttiva europea prevede che nel caso di ipotesi minima di copia, si chiama de minimis rule, in sostanza l'equo compenso non possa essere prelevato. Allora pensiamo ai cellulari, pensiamo ai decoder, non sono strumenti per fare copie private, assolutamente non lo sono. Infine l'ultimissima, che è una cosa che ritorna sempre, è l'esistenza delle protezioni tecnologiche. Insomma, se io non posso fare una copia, per quale motivo poi devo pagare l'equo compenso? Per come è strutturata la norma del decreto Bondi, ormai veramente non c'è più alcun legame tra copia privata e equo compenso. Semplicemente la SIAE aveva bisogno di questi soldi, l'industria dell'audiovisivo aveva bisogno di questi soldi, e infatti la trattativa è stata solo su questo, sull'ammontare, ed è assurdo che in Italia si pagherà su tutto quello che ha una memoria, tant'è che c'è una norma conclusiva, prima c'è un lungo elenco di una serie di apparecchi e di device, e alla fine c'è una norma conclusiva dove si dice sostanzialmente qualsiasi altra cosa che venga fuori in futuro sarà comunque tassata. Speriamo che il commissario europeo si attivi al più presto, perché poi questa è una tassa che chiaramente pesa sulle le tasche dei consumatori, ma quello che forse è ancora più grave è che blocca lo sviluppo delle tecnologie e del mercato dei contenuti digitali. E questa era la voce di Marco Pierani di Altro Consumo. Abbiamo naturalmente contattato il ministro della cultura Bondi, che ha firmato questo decreto, per un commento, ma al momento ci fa sapere la segreteria, il ministro non desidera intervenire su questo tema. Naturalmente tenteremo di contattarlo anche nelle prossime settimane, e comunque siamo a disposizione per sentire anche il suo parere autorevole. La prossima settimana, da lunedì a giovedì, si terrà a Barcellona il Mobile World Congress, il più importante appuntamento mondiale legato al mondo della telefonia mobile, anche se dire telefonia mobile è ormai riduttivo, insomma tutto ciò che ha a che fare con il macrosistema della mobilità. Un appuntamento che inizia ufficialmente lunedì, ma già da domani sera, dalla sera di domenica, sono annunciati alcune iniziative, alcune conferenze stampa per anticipare alcuni dei temi. Naturalmente parleremo di questo all'interno di GR24, nei vari appuntamenti della giornata, e comunque faremo il punto della situazione, il riassunto, nella prossima puntata di 2024, sabato prossimo. Adesso parliamo, potremmo dire, del dietro le quinte di Internet, per capire come la rete Internet si sta trasformando, come si è già trasformata negli ultimi anni, e che cosa sta appunto dietro a azioni quotidiane che noi facciamo. Magari vediamo un video sulla rete, oppure leggiamo cose, guardiamo fotografie, ma dietro succedono un sacco di cose molto particolari e anche molto interessanti. Saluto Luca Collacciani, che è responsabile per l'Italia di una società americana molto grande e molto importante per il funzionamento della rete Internet, che si chiama Akamai con la K. Benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno. Partiamo proprio dal nome, e già cominciamo a capire un po' di cose anche dalla storia di Akamai, che significa? Akamai significa intelligente, è nella lingua hawaiana, quindi intelligente perché ha degli algoritmi che permettono comunque di far viaggiare attraverso la nostra rete le informazioni nella maniera più veloce ed efficace possibile. Voi, dicevo, siete un'azienda importante per il funzionamento della rete Internet, perché diamo subito un dato così per far capire. Un quinto dei dati, soprattutto video, immagini, comunque contenuti in generale,

www.radio24.it. Selezionate la parte dedicata ai programmi e ci trovate molto velocemente. C'è una novità però, perché da questa settimana il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile attraverso il servizio podcast entro un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi potrete scaricarlo e quindi riascoltare 2024 a partire al massimo dalle 18:30. Per questo ringraziamo i nostri tecnici. E con noi Luca Collacciani di Akamai, responsabile per l'Italia di Akamai. Stiamo parlando del backstage, del dietro le quinte di internet. Abbiamo parlato poco fa di dati che ci raccontano e descrivono la diffusione delle velocità di internet in tutto il mondo. C'è una classifica che anche in questo caso non vede in buona posizione l'Italia, o potremmo dire, Luca, se facessimo una ideale classifica dei più cattivi, in questo caso saremmo tra i primi posti. Hai ragione, perché infatti l'Italia appare in questa ingloriosa top 10, per così dire, tra le nazioni più attive nella diffusione di worm e virus, e si colloca al quinto posto. Quindi non è un bel dato. Quali sono i primi stati nella classifica? Sono Russia, Brasile, Stati Uniti e Cina. Quindi dobbiamo considerare che Stati Uniti e Cina al momento hanno il 40% del traffico internet mondiale combinato. Quindi è logico che siano tra i primi in questa classifica. Sì, Akamai, la sicurezza è qualcosa a cui guarda con particolare attenzione. Abbiamo seguito ultimamente i cyberattacchi dalla Cina e quindi a Google. Ancora non so, è qualcosa da definire, perché se un paese bombarda un altro è un atto di guerra, se un paese attacca un altro su internet cos'è? Questo è vero. Bella domanda. Anche questo potrebbe essere considerato una guerra informatica, che non fa morti, però fa dei danni piuttosto ingenti, piuttosto importanti. Senti, volevo capire anche in prospettiva a che tipo di trasformazione della rete, che tipo di contenuti state guardando per i prossimi anni, i prossimi mesi. Abbiamo detto del video, sì. Solo ed esclusivamente video? Dunque, la rete o la diffusione dei contenuti attraverso internet cambierà sostanzialmente nei prossimi anni. Tutti i dispositivi mobile, quindi parliamo di cellulari, parliamo magari del nuovo dispositivo di Apple, l'iPad, oppure parliamo anche del Kindle di Amazon, il lettore, quindi ebook, sarà possibile fruire contenuti a questi dispositivi. Quello che farà Akamai in futuro è permettere a tutti la fruizione, per così dire, anche di un sito internet su questi dispositivi. Al momento non so se possiedi un iPhone oppure un BlackBerry, quando comunque si accede a un sito internet magari non si vede bene perché la formattazione non è giusta. Quindi una delle sfide del futuro sarà appunto quello di accedere a internet e permettere, non so, magari di comprare un biglietto ferroviario oppure un biglietto aereo dal proprio cellulare qualche minuto prima della partenza. Questo al momento è ancora difficile. Sì, diciamo che si può fare, perché esiste anche un'applicazione di Trenitalia che è disponibile, però certamente non è un prodotto di massa, diciamo così. Senti, quindi vuol dire che voi cercherete di andare anche sulle reti mobili? Sì, corretto. Con i vostri server? Corretto. Al momento le reti mobili hanno un problema, che la connettività lì è un pochino bassa, è qualcosa che Akamai non può esattamente risolvere, perché comunque il problema è tra il dispositivo cellulare, quindi, e la centralina. Noi possiamo agire dopo la centrale, diciamo, però anche lì possiamo comunque migliorare in qualche modo. Bene, io ringrazio Luca Collacciani per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, buona giornata. E a proposito di mobilità e di tutto ciò che avviene nel più vasto mondo della mobilità, quindi telefonia mobile, tutto quello che è nato poi dalla telefonia mobile, vi ricordo che la prossima settimana ci sarà il Mobile Congress di Barcellona, che seguiremo, e quindi la prossima settimana 2024 faremo il punto della situazione anche con alcuni annunci che verranno fatti alla fiera. Ormai le fiere non sono più l'appuntamento principale dove vengono fatti gli annunci, che invece vengono fatti un po' in tutti i mesi dell'anno, ma sicuramente quello è un momento importante anche per incontrarsi e per appunto fare il punto della situazione. Abbiamo parlato di video, della diffusione del video attraverso la rete internet. In questo settore nascono ogni mese o ogni anno delle idee. Una che è nata recentemente, grosso modo da un anno, ma che è ancora in una fase di sviluppo, è stata realizzata da una società svizzera. L'amministratore delegato è Antonello Madonna, la società è 3D Enter, che ha ideato TV Surf. Madonna, benvenuto a 2024. Grazie Enrico e buonasera. Voi avete pensato in un primo momento, insomma, ideato questo set-top box, potremmo definirlo così, giusto per fare capire agli ascoltatori di che cosa si tratta, un prodotto che, se lo si guarda, potrebbe sembrare un decoder come ne esistono altri per la TV satellitare, per il digitale terrestre, eccetera, eccetera, pensando ad internet. Da quale concetto siete partiti? Siamo partiti dal concetto di avere una sempre maggiore disponibilità di quelli che sono i contenuti, e come contenuti intendo qualsiasi cosa che possa essere dato all'utente che ne fruisce, quindi video e quindi contenuti testo, qualsiasi cosa, di cui oggi il web è diciamo la massima espressione come fonte, e di poter dare questi contenuti all'utente televisivo, non all'utente che utilizza il personal computer e che entra in rete e utilizza internet per andare a vedere determinate cose, ma proprio di sfruttare la centralità del televisore, che molto probabilmente si è perso anche a livello familiare con gli anni, e ridare questa centralità portando il televisore ad essere quello strumento per andare a quell'oggetto, per andare a vedere i contenuti che uno vuole, quando vuole, che vengano da qualsiasi parte, quindi da internet, così come anche dal digitale terrestre, e sfruttare così quella capacità di accedere in modalità televisiva, per l'utente televisivo, a quell'infinità di contenuti che sono disponibili sul web. Tu fai riferimento a contenuti, in realtà diciamo che la chiave è soprattutto il video, sbaglio? La chiave è il video, però la chiave sono anche i giornali, perché andare a poter leggere i giornali, andare a poter leggere gli articoli direttamente dal televisore, magari mentre una parte del televisore fa vedere uno spezzone di un video, e poter leggere un'informazione dall'altra parte, così come leggere anche la pagina di Wikipedia se mi stanno dicendo qualche cosa di cui io non so e non ho idea di che cosa possa essere, potrei chiedere al televisore di farmi vedere la pagina di Wikipedia dove mi spiega che cos'è. Chiarissimo. Allora uno potrebbe dire, esistono già per far questo i media center, cioè quei computer che di fatto ci permettono di vedere video, fotografie, la TV, di registrare, di fermare la videoregistrazione anche mentre stiamo guardando un programma televisivo e riprendere la visione del programma televisivo come se fosse un DVD che noi abbiamo fermato. Insomma, ci permettono di fare tante cose. Ecco, a questo voi come rispondete? Il concetto di media center è un concetto in cui io devo andare a caricare il media center con dei contenuti. Io qui sto parlando di tempo reale, cioè sto parlando che io posso accedere a qualsiasi tipologia, a qualsiasi tipo di contenuto esistente in rete senza sapere dov'è, perché me lo cerca TV Surf, e vado a utilizzare, vado a vedere tutte quelle cose che possono esserci disponibili sull'argomento che mi interessa, di cui io semplicemente ho informato, se così si può dire, il televisore tramite il telecomando, digitando semplicemente un criterio di ricerca. Quindi diciamo che lo strumento con cui si pilota tutto è il telecomando, cioè non c'è né tastiera né mouse. Non c'è né tastiera né mouse, posso avere la funzionalità del mouse tramite il telecomando, perché ovviamente posso anche navigare, però il concetto fondamentale è che io mi vedo i contenuti senza sapere dove siano o senza sapere dove devo andare a cercarli, perché TV Surf fa questo lavoro per me, è un quelli che oggi chiamano un motore di ricerca televisivo per video, che propone, raccomanda quali sono i contenuti pertinenti a quello che uno vuole vedere. Se voglio vederne ad esempio qualche cosa di Maradona, di Maradona, me lo posso andare a vedere quello che esiste in rete. Quanto costa questo prodotto? Allora, oggi il prodotto sul mercato è venduto a 449 euro IVA inclusa, con però una seconda generazione che è prevista per il secondo semestre di quest'anno, dove ci sarà un naturale calo del costo e ovviamente dei prezzi. Tecnicamente questo sistema, cioè la piattaforma che voi utilizzate, che questo prodotto utilizza per far vedere in TV i contenuti della rete, fa qualche cosa di particolare, cioè trasforma di fatto le pagine web in qualche modo o i video? Assolutamente sì, sostanzialmente rende i contenuti, le pagine web, i contenuti che sono all'interno delle pagine web in formato televisivo e le trasmette a pieno schermo. Questo è il punto fondamentale. In più ha la grandissima capacità di gestire un'interattività completa con l'utente, compreso anche il fatto di poter mandare della pubblicità in relazione a quello che io sto vedendo, e non una pubblicità generalista, nel senso che sto vedendo la partita di calcio e mi arriva la pubblicità della pastiglia per la gola, ma se io sto vedendo un qualche cosa che è relativamente il calcio, mi può mandare una pubblicità di scarpe da calcio piuttosto che di altri argomenti che magari sono più pertinenti a quello che è il mio interesse in quel momento. Io ringrazio Antonello Madonna per essere stato con noi, in bocca al lupo allora per TV Surf, a presto. Grazie ancora. Questa è l'ultima parte di 2024, parliamo di sicurezza informatica, ci sono alcuni fenomeni interessanti che vedremo forse sempre più nel corso del 2010, allora è bene tenerli sott'occhio. Ne vogliamo parlare oggi con Rossano Ferraris, che è un ricercatore che lavora per Computer Associates all'interno del gruppo che si occupa di sicurezza, in modo particolare di un team che si chiama Internet Security Intelligence. Benvenuto a 2024. Grazie. Partiamo da un fenomeno che voi dite, vedremo sempre più nel corso del prossimo anno, che è quello degli antivirus falsi. Di che cosa stiamo parlando? Dunque, il fenomeno dei falsi antivirus è un fenomeno piuttosto complicato, però molto molto interessante. Si tratta di software che vengono distribuiti attraverso delle reti di affiliati che commissionano la creazione di un falso antivirus da degli sviluppatori che sviluppano questo software. Successivamente entrano altri attori che sono gli attori dei vettori di distribuzione e successivamente c'è il cliente e l'utente finale che cade nella trappola. Allora, mi spiegherò meglio. Attraverso i metodi di distribuzione, come per esempio lo spam, quindi attraverso l'email, l'utente finale riceve il messaggio che tramite tecniche di ingegneria sociale da parte degli autori di questo messaggio, l'utente è invitato a cliccare su un qualcosa, a fare determinate operazioni dopo aver letto questo messaggio e successivamente viene rediretto verso un sito fraudolento, un sito pericoloso che contiene un video o un elemento o comunque una procedura che l'utente deve operare, deve svolgere, e se l'utente continua in questo tipo di operazione, cosa succede? Che il proprio PC viene compromesso tra virgolette, cioè la cosa che succede è che nel desktop del PC dell'utente si presenta un falso antivirus, quindi una falsa scansione, dicendo all'utente che c'è una serie di virus, il proprio PC è compromesso, il proprio PC non è sicuro, cercando di spaventare l'utente stesso. Diciamo che l'utente cosa fa? O evita cioè evita di continuare in questo tipo di operazione, cioè evita, fa finta di niente, allora cosa succede? Succede che comunque il ROG software o falso antivirus continua nella sua compromissione, scaricando magari ulteriori virus, ulteriori trojan, ulteriori malware comunque all'interno della macchina e quindi creando una maggiore compromissione della macchina stessa. Oppure l'utente, spaventato dell'accaduto dell'evento, procede all'acquisto. Perché ho parlato di reti affiliate? Perché l'acquisto cosa determina? Determina una commissione sia a coloro che hanno creato questo vettore di distribuzione, certo, sia a chi l'ha distribuito. A chi l'ha distribuito. Ma quindi se uno scarica da siti conosciuti o compra un antivirus non ha questi rischi? No, non ci sono questi rischi. Quindi stupisce che ci siano persone che abboccano a queste proposte. C'è da ricordare che ci sono i vettori di distribuzione sono molto sofisticati, quindi attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria sociale, come per esempio un'email che è apparsa recentemente dalle caselle di posta anche degli italiani, che era quella di un aggiornamento Microsoft, moltissimi utenti sono caduti in questa trappola. In realtà non era un aggiornamento Microsoft, ma in realtà era un collegamento a un sito che ospitava queste false antivirus. Molte sono state le macchine compromesse da questo tipo di distribuzione. A volte ci sono anche dei termini che gli addetti ai lavori coniano per raccontarci quello che sta succedendo in rete. Ce n'è uno che voi avete scritto in questo rapporto che avete realizzato e presentato, State of the Internet 2009, che si chiama Malvertising, che è un misto tra malware e advertising, quindi la pubblicità. Sì, esatto. Si suppone che, si ritiene che nel 2010 sarà un altro fenomeno prevalente. In che cosa consiste il malvertisement? Consiste nell'inserimento di banner pubblicitari in siti con un certo tipo di reputazione, e questi malware pubblicitari apparentemente sembrano mostrare pubblicità magari di automobili o di cose comunque lecite, legali. In realtà l'utente, cliccando su questo banner, viene rediretto su un sito fraudolento, su un sito molto pericoloso. Questo avviene perché? Avviene perché le reti di pubblicizzazione, le cosiddette advertising networks, creano un sistema molto automatizzato, cioè coloro che vogliono inserire della pubblicità lo fanno in maniera automatica. E quindi i criminali sfruttano questo basso livello di controllo da parte delle reti di advertising per poter inserire i propri banner fraudolenti. Voi dite anche che già negli ultimi mesi, anni, e sempre più nei prossimi mesi, anni, c'è un'escalation come sistema di distribuzione dei virus, dei malware, sfruttando motori di ricerca e siti di social network. In questo caso che cosa succede? Allora, per quanto riguarda i motori di ricerca, si parla specificatamente nel tecnico di avvelenamento dell'indice di ricerca. Cosa succede? Che i criminali fanno uso, senza alcun tipo di morale, di problematiche, di eventi disastrosi che succedono oppure di news, di novità a livello mondiale. Ad esempio in questo periodo terremoto a Haiti. Bravissimo, esatto. Per esempio si è scoperto che inserendo nel motore di ricerca Google le parole chiave Haiti Earthquake, diciamolo in inglese perché abbiamo scoperto un risultato veramente disastroso, per in quanto una volta inserite queste parole chiavi, il secondo risultato in cima al top del motore di ricerca Google è proprio un collegamento a un sito di falso antivirus. Però se uno poi non scarica nulla non rischia nulla, o già solo andare sul sito è rischioso? Già solo andare sul sito c'è una automaticamente viene installato attraverso un ActiveX, viene installato una demo di un falso antivirus sul PC dell'utente. Senti, tu prima hai detto che avete notato in modo particolare questo link facendo una ricerca in lingua inglese. Il fatto che l'inglese sia il più utilizzato su internet, in qualche modo noi che invece parliamo e scriviamo insomma prevalentemente su internet in lingua italiana, ci protegge un pochettino? Ci protegge un pochettino, sì. Quindi abbiamo la fortuna che, essendo l'italiano la lingua parlata in Italia, è poco parlata nel mondo. Esatto, è poco parlata nel mondo, proprio perché c'è da considerare questo: i criminali si basano sulla massa, quindi maggiore è l'utenza nella lingua, nel sistema operativo, nelle piattaforme utilizzate, quindi social network eccetera, allora questi sono i target principali. Ecco, quindi è per questo che sono maggiori i virus, diciamo, pensati e progettati per i sistemi Windows rispetto ad altri sistemi operativi, altri programmi? Certamente. Però voi avete notato qualche cosa che sta cambiando? Sì, sì, qualche cosa sta cambiando, sempre per quel motivo lì. Cioè, per esempio, le minacce su internet stanno anche investendo il mondo Macintosh. Nel 2009, per esempio, abbiamo rilevato una quindicina di nuovi virus che, il cui target era il sistema Mac OS. Il motivo per cui questo avviene è che un numero crescente di utenti sta acquistando sistemi operativi Macintosh. Quindi questo ci dice, è anche un suggerimento su come va il mercato. Su come va il mercato, certo. Quindi diciamo che l'inattaccabilità del sistema Mac di Apple, mano a mano che crescono i numeri e si diffonde anche questo sistema operativo oltre a Microsoft, accresce anche i rischi. Senz'altro. Quando parliamo di un utente finale, anche di un professionista, di una piccola azienda che ha un sistema di protezione per il proprio computer, per le proprie macchine, se questo sistema viene aggiornato, è acquistato regolarmente o in alcuni casi anche lo si trova gratuitamente, questo utente può stare tranquillo? Può stare tranquillo per un 80%, c'è sempre comunque una percentuale in cui deve considerare le giuste operazioni da svolgere quando si trova su internet. Quando utilizziamo l'email, quando utilizziamo internet, dobbiamo sempre comunque applicare delle norme, delle regole, le classiche regole, per esempio riguardo alla posta elettronica, essere sospettosi, alzare il proprio livello di scetticismo nei confronti di messaggi che, pur provenendo anche da persone che conosciamo, ma questo non significa che la sorgente sia in realtà la persona che conosciamo. Quindi stare molto attenti alle operazioni che si richiede che vengano fatte da parte di un'email, oppure anche se parliamo di attacchi alle piattaforme di social network, messaggi che possono apparire su Facebook o su altri social network in cui si richiede di fare determinate operazioni. Quindi, perché si è notato che sono stati creati, i criminali hanno creato dei profili, dei falsi profili sui social network al fine di indurre gli utenti a compiere determinate operazioni. Il malcapitato utente, compiendo questi tipi di operazioni, risulta con avere la propria macchina compromessa. Sì. Io ringrazio per essere stato con noi Rossano Ferraris, ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci. È tutto per questa puntata di 2024, torniamo la prossima settimana una puntata speciale dedicata al Mobile World Congress che inizia lunedì a Barcellona, lo seguiremo anche all'interno di GR24 nel corso della settimana, almeno nei primi giorni della settimana. Io sono Enrico Paglierini, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie anche in redazione ad Anita Ariotti. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi ricordo che da questa settimana il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile attraverso il servizio podcast tra un'ora e mezza, quindi al massimo a partire dalle 18.30 potrete scaricare il file e quindi riascoltarci quando preferite. È tutto, grazie ancora, appuntamento alla prossima settimana. You are disconnected.